piace. Di Raffaella Calandra. Che cosa significa a Rosarno avere un cognome come Bellocco oppure Pesce? Avere un cognome come questi significa innanzitutto il fatto che ovviamente non ci si rivolga in un certo senso a queste persone come magari ci si rivolge a delle persone con un cognome tra virgolette normale, ma questo accade magari fuori dalla scuola o non all'interno della nostra scuola. Non esistono cognomi, perché esistono semplicemente le persone. A Rosarno tutti sanno a chi appartengono le case e i quartieri. La torretta blindata che guarda la piana di Gioia Tauro, che era di Ciccio Pesce. La villetta ocra di Maria Concetta Cacciola, dove per mesi il suo manifesto di morte è stato esposto e dove abitavano i genitori e il fratello che di quella morte sono stati accusati. E poi la palazzina che era dei Bellocco, svuotata di tutto dopo la confisca della magistratura. E tutti sanno a chi appartiene quella vecchietta col fazzoletto nero in testa che vende frutta per strada. Ma questi cognomi che rimandano ai signori di Rosarno, i padroni di una città a feudo di 'Ndrangheta, all'improvviso svaniscono del tutto quando si varca il cancello di una scuola divenuta il fulcro della nuova generazione Rosarno. E da qui partiamo per questa nuova puntata di Storiacce. Gli studenti che frequentano questa scuola appartengono a determinati entourage, alcuni, altri a famiglie molto per bene, quindi media, borghesia. Altri invece proprio sono figli di boss o presunti tali. Si sono abbattuti i pregiudizi, si sono abbattuti i privilegi, perché non ci sono cognomi, non ci sono figli di boss, non vi sono differenze sociali. I ragazzi a scuola sono tutti uguali. Solo in Calabria è successo già una ventina di volte. Almeno 20 ragazzi sono stati tolti alle loro famiglie negli ultimi anni per volere del Tribunale dei Minori, perché fossero allontanati da un contesto di malavita e ricevessero le chance di un futuro diverso. Sono le stesse madri di 'Ndrangheta ora a chiedere alla magistratura di salvare i propri figli e toglierli alle dinamiche criminali. Il primo ad essere allontanato dai suoi familiari fu Alfonso, il 12 marzo del 2012. Il ragazzo già aveva un vissuto familiare molto travagliato. Quando arrivarono le forze dell'ordine in presidenza, ma con tatto e garbo straordinario, alla presenza anche di una psicologa, mi invitarono ad andare in classe per prelevare il ragazzo. Il ragazzo fu prelevato da me, accompagnata dalle forze dell'ordine con molto garbo, forze dell'ordine in borghese. Ci accomodammo in presidenza e cominciammo a confrontarci sulla situazione. La cosa fu drammatica per i compagni di classe, per i docenti, per me, che in qualche modo eravamo stati per lui la sua famiglia in quel periodo molto travagliato, e dunque l'abbiamo vissuta come uno sradicamento sia noi che lui, fermo restando che la collaborazione con le forze dell'ordine fu tale che ci venne concesso di poter seguire Alfonso presso una casa famiglia, per cui il ragazzo fu preparato per sostenere gli esami di idoneità alla classe successiva, e l'anno dopo, conseguendo la maggiore età, ritornò a scuola. Maria Rosaria Russo è il preside dell'Istituto Piria di Rosarno, il fulcro di un'autentica rivoluzione culturale che ora fa paura alla stessa 'Ndrangheta. E per questo lei stessa, come sentiremo più avanti, per questo è stata più volte minacciata, perché qui, in una stessa classe, possono trovarsi seduti insieme il figlio di un boss, quello di un collaboratore di giustizia e il figlio casomai di una famiglia vittima di quegli stessi clan. Ma tutti perdono il loro ruolo, diciamo così, e il peso del proprio cognome, e diventano solo studenti, tutti allo stesso modo. Quella che altrove può sembrare quasi un'ovvietà, direte, qui invece, in uno dei più ostinati fortini di 'Ndrangheta, è una svolta epocale, credetemi, che fa parlare di Generazione Rosarno, titolo del libro di Serena Uccello, edito da Melampo. Nella Generazione Rosarno i ragazzi camminano come funamboli sul filo, rivolti verso un orizzonte diverso da quello che ha scandito la vita di questa parte della Calabria, dove capita anche di vedersi portar via un proprio compagno di classe in una mattina di primavera. È stato un giorno triste per il liceo, perché un ragazzo che frequentava, che stava con noi all'interno della scuola, è stato portato via, strappato dal suo ambiente, portato da un'altra parte, non sappiamo dove, sia stato portato, allontanato da noi che comunque gli volevamo bene. Sapevamo un po' la storia familiare di Alfonso, siamo rimasti un po' sbigottiti, perché vedevamo un nostro amico che veniva estrapolato, portato via dalla scuola, dal suo ambiente, da dove era cresciuto, dai suoi compagni, per un qualcosa che lui non aveva fatto, lui non aveva colpe di tutto ciò che era accaduto. In qualche modo lui ne aveva mai parlato con voi, con altri ragazzi della scuola, del suo contesto familiare? Sarà capitato alcune volte che lui abbia parlato con noi, forse di voler sfuggire da quella situazione. Quello che è l'ideale di tutti quei ragazzi che vogliono sfuggire dall'ambiente in cui si trovano. E loro dicono chiaramente di voler venire fuori da quello che è il loro ambiente, la loro famiglia. Non distaccarsi dalla famiglia, come nel senso ripudiare il loro padre o la loro madre, ma non condividerne gli ideali della famiglia. Storia emblematica, quella di Alfredo e della sua mamma, Maria Concetta Cacciola, morta per aver ingerito acido muriatico, come è successo ad altre donne divenute collaboratrici di giustizia in Calabria, ma per quella morte sono stati processati i suoi più stretti familiari ed è per questo, come disse l'allora procuratore capo di Palmi, ora a Firenze, Giuseppe Creazzo, che questa è una storia simbolica. Si tratta di una giovane donna fatta sposare a 13 anni con un marito che non aveva liberamente scelto e che per il fatto di aver allacciato una relazione extraconiugale mentre il marito era ristretto per associazione mafiosa anche lui è stata sottoposta a vessazioni e maltrattamenti che poi l'hanno indotta a fuggire ed a collaborare con la polizia e poi è stata costretta a ritornare sotto il ricatto di non farle più vedere i figli. Ed è una storia triste perché alla fine Maria Concetta Cacciola è morta. La grande storia passa nelle aule di questa scuola, a volte anche con le parole semplici di un adolescente, come quelle di Roberta Bellocco, figlia di uno dei più potenti boss della zona. Eccomi, sono Roberta, una ragazza di 17 anni con un cuore pieno di dolore. Quello che ho deciso di mostrare è un lacerto del mio papà, un papà che ho conosciuto a frammenti e solo tramite immagini sporadiche. Non ho avuto la gioia di crescere insieme a lui, di farmi coccolare, di condividere le mie conquiste, le mie tristezze, le glorie. Papà è lontano da qui, non dorme a casa con mamma. Posso vederlo solo una volta al mese, posso parlargli solo tramite carta e penna. Si diletta a scrivermi poesie, ogni parola mi riempie di gioia, ogni parola è una fessura tramite la quale conosco a fondo il mio papà. Attraverso il suo vissuto e la sua vita rocambolesca ho capito cosa sia la legalità. Non so dare di essa una definizione, ma so che è tutto quello che non ti limita i valori, i sentimenti, le dimostrazioni d'affetto, la vita familiare. Ho conosciuto la legalità tramite le conseguenze dell'illegalità. Dalla storia di papà ho capito che quando si sbaglia o si frequentano brutte compagnie, redimersi e immettersi sulla giusta via è una cosa che deve essere fatta prima che sia troppo tardi, prima che tutto sia perduto. Non ci sono soldi, case, macchine lussuose che possano compensare un Natale senza un papà, un compleanno nella solitudine, qualsiasi festività senza una famiglia riunita. Di Roberta, ragazza straordinaria, partecipò ad un concorso sulla legalità. Bisognava leggere questo elaborato. Roberta era particolarmente emozionata e mi chiese di leggere questo elaborato straordinario in cui lei evidenziava di essere appunto figlia di Gregorio Bellocco, un uomo appartenente all'entourage ndranghetista, ma che lei amava in quanto suo padre, dal quale prendeva le distanze condannandone i comportamenti illeciti. Alla lettura di questo elaborato l'auditorium, che era gremito di studenti e di ospiti, si alzò in piedi, cioè tutti i ragazzi si alzarono in piedi per applaudire e fu un momento di grande emozione, perché emozione per il fatto che evidentemente quei percorsi individualizzati che già stavamo portando avanti da anni attraverso appunto la collaborazione con la procura di Reggio e la procura di Palmi avevano prodotto i loro frutti, cioè far capire ai ragazzi che il figlio di un mafioso non è destinato a diventare un mafioso, perché diversamente, come spesso ha ribadito anche il procuratore Giuseppe Lombardo in questa scuola, si alimenterebbe la fabbrica dei mafiosi, ma che comunque c'è per ognuno una seconda possibilità. E allora noi abbiamo giocato la nostra partita su questa seconda possibilità. Changi da se mamma mia, che significa? significa per un clan che poggia la sua forza soprattutto sul vincolo del sangue vedere le nuove generazioni rivoltarsi contro regole ancestrali? Che significa per un padre mafioso, immaginate, vedere che la famiglia rinnega quella strada? Significa vedere sgretolare il proprio fortino più in profondità di quanto faccia una retata o un magistrato. Significa ammettere che un giorno un ragazzo possa perfino ritrovarsi abbracciato a quel procuratore che ha fatto arrestare suo padre, come è successo a Carmelo Bellocco con Michele Prestipino, ora procuratore aggiunto di Roma. E questo è un terremoto che cambia tutto e lo cambia in profondità, e per questo, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, hanno provato pure con la violenza a fermarlo questo cataclisma. Ma la nuova generazione Rosarno, per dirla col titolo del libro di Serena Uccello, ormai sta diventando grande. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Storiacce. È dedicata ad un chimico dell'Ottocento, la scuola di Rosarno, dove si sta provando uno dei più spericolati esperimenti sociali d'Italia. Porta il nome di Raffaele Piria, chimico siciliano, infatti il liceo scientifico dove il figlio di un boss e quello di un collaboratore di giustizia possono stare nella stessa aula senza che questo richiami faide ancestrali ed eserciti. È l'esperimento della generazione Rosarno che fa paura all'andrangheta per la profondità della sua portata e che per questo i clan della zona, una di quelle con la più alta percentuale di affiliati, hanno provato in ogni modo a bloccare, minacciando innanzitutto la protagonista di questa rivoluzione, Maria Rosaria Russo, preside del Piria dal 2007. Fui accolta all'ingresso della scuola con una bomba carta ben confezionata. Compresi che era un atto intimidatorio nei miei confronti perché non tolleravano l'imposizione di regole in quanto erano abituati a conoscere la non regole. Quindi questa bomba fu rimossa alla presenza appunto degli artificieri, presi la bomba, la lanciai in aria e capirono che con me non ci sarebbe stata storia se non quella del cambiamento. Una famiglia di uno degli studenti le disse anche che appunto avevano alle loro spalle più di 500 persone. Loro praticamente in presidenza mi aggredirono dicendo: noi siamo 500 e voi siete sola. E io risposi: io posso anche andare via da Rosarno non prima di averla denunciata, dice alla mamma di questo studente, alla Procura della Repubblica. Ecco, preside, per capire un po' la differenza e anche il percorso fatto, qual è stata la situazione iniziale che lei si è trovata e poi la situazione che c'è adesso? Voglio dire, arrivando in una realtà così in cui appunto in classe poteva trovarsi ad esempio il figlio di un collaboratore di giustizia e dall'altra parte i figli di famiglie mafiose. Sappiamo bene come in un contesto dove tutti conoscono perfettamente le regole, anche indranghetiste, che cosa significhi, come venga considerato chi appunto comincia a collaborare con la giustizia. È capitato? Come l'avete gestito? Certamente, certamente. Ecco, intanto amalgamare gli studenti, non creare delle classi ghetto, per cui all'interno di tutte le classi noi ci ritrovavamo il figlio del presunto boss o del boss, il figlio del primario e nel contempo anche il figlio del collaboratore di giustizia. Questi ragazzi alla fine si sono trovati di fronte ad un bivio: scegliere da che parte stare, e alla fine hanno capito che bisognava scegliere e che prima che fosse troppo tardi, e quindi a quel punto le situazioni si sono amalgamate proprio in maniera estremamente naturale. Inizialmente come si guardavano tra di loro, come interagivano tra di loro, se interagivano, il figlio del collaboratore di giustizia e interagivano nel senso che generalmente i figli di collaboratori di giustizia, le parlo nel 2007 quando sono arrivata qua, venivano comunque ghettizzati ed emarginati perché venivano considerati figli dei cosiddetti tra virgolette infami. In realtà poi si è compreso che voglio dire, assolutamente questi giovani a quest'età potevano essere protagonisti di una svolta storica, ma ripeto, questo è stato fatto grazie a degli interventi individualizzati opportunamente mirati sulla psiche di questi ragazzi, sulle loro coscienze e anche diciamo attraverso quello che è stato lo strumento fondamentale, il libro, la cultura. Da sempre Rosarno è territorio spartito innanzitutto da due famiglie, i Bellocco e i Pesce, una diarchia che si contende questo paesone attaccato al porto di Gioia Tauro, crocevia di affari e traffici. Negli ultimi anni però le madri di Rosarno per prime hanno cominciato a ribellarsi a secoli di regole criminali e imposizioni per il bene dei figli, per dar loro una prospettiva diversa da quella di finire ammazzati o arrestati. Capita così che ora siano anche le donne di famiglie criminali a bussare alle porte dei magistrati per chiedere aiuto, per chiedere di eliminare gli incubi di pistole e fughe dalle notti dei loro bambini e riconsegnarli alla loro infanzia. Come pensò Giusy Pesce, figlia appunto di uno dei clan egemoni della zona, nel momento in cui cominciò a collaborare. Lo ripercorre così quel momento Alessandra Cerreti, PM milanese già per anni a Reggio Calabria. Giusy Pesce è riuscita a tenere fede al suo impegno con lo Stato, è riuscita ad affrontare un esame dipartimentale estremamente complesso e duro, si è messa a nudo innanzi al tribunale, si è fidato di questo Stato che le ha teso la mano. Tutto ciò lo ha fatto nell'interesse dei propri figli, per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato nella struttura dell'Ndrangheta, un futuro di libertà. Anche un cognome come Pesce, firma di molti delitti, di latitanze celebri e di estorsioni capillari da queste parti, perde di peso, di paura e di storia quando portato da uno studente dell'Istituto Piria di Rosarno, la scuola dove gli alunni imparano che pure dietro i cognomi ingombranti ci sono in realtà solo degli adolescenti come Caterina e Andrea. Ci sono dei pregiudizi verso queste persone, ma non significa comunque che bisogna in un certo senso condannarle, ma anzi, al contrario, bisogna appunto accoglierle. Inevitabilmente all'inizio, nel momento di fare l'appello, sentire qualcuno che fa cognome Bellocco, Pesce, diciamo, non passa inosservato. Il fatto che porti un cognome che sia Bellocco non significa necessariamente che quella persona sia destinata ad essere un mafioso, perché può essere invece una persona come tutti noi, appunto, e alla fine è realmente così. Nella vostra scuola ci sono stati momenti, giornate che in qualche modo sono state giornate particolari, i genitori di qualche compagno di classe era coinvolto in qualche inchiesta, in qualche retata? Queste sono cose che avvengono non giornalmente, ma si verificano durante l'anno. Naturalmente quando succedono determinate questi fatti il clima è teso nella scuola, ma non si sente il peso, noi ci rapportiamo come dei normali ragazzi. In che modo, diciamo, che un ragazzo che vive a Rosarno avverte la presenza dell'Ndrangheta? Sentirsi un po' al di sopra magari, ma noi non abbiamo comunque paura, è l'Ndrangheta ad avere paura di noi, non siamo noi ad avere paura dell'Ndrangheta. Questione aperta, quella della gestione dei figli delle famiglie mafiose, e orientamenti molto diversi ci sono anche all'interno dell'antimafia, dove l'esperimento del liceo Piria, protagonista della Generazione Rosarno, resta, possiamo dirlo, un'eccezione. E controversa è la linea seguita dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, perché togliere i ragazzi dalle loro famiglie non rischia di creare in loro il mito di quei padri lontani e l'odio invece verso lo Stato? Se lo chiede Serena Uccello, collega del Sole 24 Ore, autrice di Generazione Rosarno. In più casi ci sono stati appunto provvedimenti motivati in cui il Tribunale dei Minori ha ritenuto di allontanare i figli di queste famiglie dal contesto familiare. Sono casi in cui il Tribunale ravvede l'urgenza perché c'è una situazione di pericolosità per il minore stesso, o casi in cui il Tribunale individua quel minore è a rischio. Si segue un po' in questo caso la linea che si segue anche con i figli di tossicodipendenti, ad esempio. Non sempre questo è un orientamento condiviso. Da un lato ci sono coloro che, come dicevi tu, sono più orientati a far sì che nel caso di questi ragazzi si applicano lo stesso tipo di atteggiamento, lo stesso tipo di misure che si applicano per quei ragazzi che provengono da famiglie, da genitori che hanno un passato di tossicodipendenza, di alcolismo. Dall'altro invece c'è chi sostiene, e io sono tra questi, chi sostiene che invece un allontanamento forzato rischia di avere un effetto controproducente, rischia cioè di avere degli effetti di mitizzazione rispetto alla famiglia di origine. La misura probabilmente è quella dell'equilibrio, di discendere caso per caso, e questo è possibile perché sempre il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha avviato un percorso di collaborazione con diverse associazioni, ad esempio con l'associazione Addio Pizzo di Messina, e ci sono stati dei risultati interessanti. Il tuo libro si sviluppa proprio intorno ad un progetto pilota lungimirante che avviene appunto in un una scuola di Rosarno, ma non sempre anche all'interno delle scuole la linea è questa. Ad esempio, in fatti di cronaca recente ci hanno raccontato di una condotta completamente diversa che si è avuta a Bari. Qual era l'episodio? Si tratta di un bambino di 10 anni che è stato respinto da 4 scuole diverse con la motivazione che la scuola non poteva accettare più altri studenti, motivazione formale diciamo, non poteva accettare più altri studenti. La motivazione sostanziale è quella che dicevi, cioè che il figlio, a parte questo ragazzino, proviene da una famiglia diciamo compromessa, con un padre giudicato un boss e che quindi ha un passato criminale alle spalle. Per far sì che questo ragazzo, l'istituzione scuola desse una possibilità, è intervenuto addirittura il sottosegretario all'istruzione e poi la dirigente scolastica, che insomma è intervenuta per far sì che questa situazione paradossale si risolvesse. Ma il tema come questo ebbe radici così profonde nel mito classico che molto si interrogò sulle colpe dei padri e le conseguenze per i figli. Linea allora a Giorgio Geranò, professore dell'Università di Trento, e alle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. I figli che non si liberano dalle colpe dei padri sono infelici. E non c'è segno più decisivo e imperdonabile di colpevolezza che l'infelicità. Sono parole che Pierpaolo Pasolini scrisse poco prima di morire, esattamente 40 anni fa. Pasolini pensava al mito greco. Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco, scriveva, è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti. Pasolini pensa a famiglie mitologiche come quella di Edipo o quella di Agamennone, dove maledizioni e colpe si trasmettono di generazione in generazione. Non ci sono figli innocenti, dice Pasolini. Ma questo furore dello scrittore contro i figli ha qualcosa di cupo e in fondo di falso, anche in rapporto al mito greco. L'idea tragica della colpa ereditaria non è così netta come pretende Pasolini, forse anzi è solo un modo per raccontare il fatto che le sofferenze di ogni individuo nascono misteriosamente prima dell'individuo stesso. E comunque, anche nel mito greco, arriva un momento in cui i figli smettono di scontare le colpe dei padri. Il momento in cui, come nell'Orestea, il capolavoro di Eschilo, per volere di un dio, un tribunale assolve Oreste, l'ultimo discendente della stirpe di Agamennone, e lo lascia andare a testa alta per le strade del mondo, libero dalla maledizione della sua famiglia. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ma se avete segnalazioni da proporci, storie da condividere, piccole o grandi vicende che volete portare alla nostra attenzione, ora sul sito c'è anche la pagina per le vostre storiacce, aperta appunto per tutti voi. Potete anche scrivere a storiacce@radio24.it. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.